Roma Trastevere, 28 novembre 1973. Care Eleuterio, la casa che mi vide sognare un avvenire felice oggi mi vede sognare un passato felice. Il che significa che stavo meglio prima di conoscerti. Anzi, stavamo, perché la mia sorellina non vuole essere esclusa da serenità che non avremo più. E io penso che la serenità è solo una malinconia che ha preso il tranquillante. Penso anche che sei un deficiente, Eleuterio. Tutta la nazione si batte contro l'inquinamento e io non posso perché tu mi ostacoli. Sempre tua. Roma Parioli, 29 novembre 1973. Inestinguibile, sempre mia. Per la prima volta tu e io siamo perfettamente d'accordo. Stavamo meglio prima. Non sono d'accordo sull'inclusione di tua sorella. Un trumeau non può avere sensazioni. E fisicamente come stava prima sta adesso, con l'aggravante degli orecchi che tentano una riuscitissima imitazione del cocker. Non è esatto che tutta la nazione si stia battendo contro l'inquinamento. Tutta la nazione, meno me, che continuerò a battermi contro di te per via dell'inquinamento. Eleuterio, ho scritto. Di a tua sorella che passi da queste parti. Il bambino della portinaia dice che la Befana non esiste. Roma Trastevere, 30 novembre 1973. Care Eleuterio, gatto, nel senso di gatto che non conosco, come lo direi a uno di quelli del Pantheon. Mia sorella ha letto la faccenda degli orecchi e della Befana. Credo si sia arrabbiata. L'ho vista prendere il mattarello della pasta, spezzarlo come un grissino dicendo «Se lo piglio lo rompo così». Ho il sospetto che stesse pensando a te. Sul tavolo accanto a me c'è un vecchio album di fotografie. E io penso che l'album di fotografie è il promemoria di quello che si è fatto. Continuerò a battermi contro l'inquinamento. Mia sorella è al mio fianco, sempre tua. Roma Farioli, 1 dicembre 1973. Indimenticabile, sempre mia. Comincio a sentire la tua assenza. Da 3 giorni mi mancano i quotidiani spunti che il tuo cretinismo fornisce. E allora io non so di che parlare con gli amici. Non mi diverto. Di a tua sorella se per favore può venire sotto casa. Mi si è bloccata la macchina. L'unico carro attrezzi che conosco è lei. Torna. Qualcuno deve aver otturato il buco della serratura della porta di casa. Non riesco a infilarci la chiave. Sono costretto a entrare dalla terrazza. Eleuterio, ho scritto. La portinaia ha scoperto il mistero della serratura. Dice che la chiave dell'armadio è difficile che entri in una serratura di tipo inglese. Roma Parioli, 2 dicembre 1973. Caro Eleuterio, micione! Sono di nuovo nella casa dove tu comandi quando non ci sei e io quando ci sei. Insomma, nella casa di tutti e due. Ho tolto i giornali dal soggiorno. Sotto ci ho ritrovato il tappeto persiano. E io penso che il tappeto è il silenziatore dei nostri passi. Penso anche alla stupidaggine che ci ha fatto litigare. Ricordo tutto. Tu eri nel tuo studio. Io no, perché ero in soggiorno. Dov'è la mia pipa? Non sei più in studio, Eleuterio? Certo che sono in studio. E non mi vedi? Eleuterio, uno che entra in soggiorno non può essere in studio. Vedi, quello che mi piace di te è la lucidità mentale. Se non la smetti di frequentare tua sorella, l'eccedenza di rimbambimento che la distingue finirà per trasferirsi in te e tu non ti puoi sovraccaricare. Eleuterio, la devi smettere con mia sorella. Primo è una donna, poi è tua cognata. Sadica, non è bello ricordare un poveraccio le colpe commesse. Se ho avuto un momento di debolezza sposandoti, aiutami a dimenticarlo. Ma che accidenta ci hai messo sullo schienale della mia poltrona? Non fare domande idiote, si vede benissimo che cos'è. È una cappa da cucina con aspiratore incorporato e tubo fuoriescente dalla finestra. È contro l'inquinamento dell'aria. Tu ti metti lì sotto e fumi tranquillo. Fumerò tranquillo solo dopo averti scaraventato dalla finestra. Ma che... Come ti è venuto in mente di mettere sulla mia poltrona questo coso? Me lo ha fatto un artigiano amico di mia sorella. Chi è quello con il quale tua sorella gioca a braccio di ferro? Eleuterio, piantala. L'inquinamento dell'aria è una cosa seria. E quando viene qui tua sorella, come la mettiamo? Mia sorella non fuma. Allora deve essere un caso di autocombustione, perché emette fumo dagli orecchi e dalle narici. Non è vero. Bugiarda, l'ultima volta che è entrata nel mio studio, le rose nel vaso sono appassite in contemporanea. Come la mettiamo? Lascia stare mia sorella e posa quella pipa. Io voglio fumare. Mettiti sotto la cappa. Adesso ti ci metto io sotto la cappa, t'accendo e vediamo se funziona. Buono Eleuterio, fermo, se no torno da mia sorella. Va bene, ma prima dammi una ragione valida per cantare di quella pira. Vieni qui. Ricordo tutto, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Mentre ti aspettavo, pensavo che sarebbe ora di ristrutturare i cassetti del tuo armadio.